Sì, ecco, ciao a tutti e a tutti. L'udienza si è conclusa già insomma, da un'oretta, era l'ultima udienza prima della pausa estiva e come ci siamo aggiornati anche insomma, il mese scorso, il 26 giugno, che era stato mandato il rinvio. Oggi sono stati sentiti nuovamente altri testi della difesa. Sì. E in particolare è stata un'udienza comunque dove è stata confermata nuovamente la ricostruzione più esatta e vera della dinamica di Piazza San Giovanni, è stata fatta in maniera molto puntuale, dove nuovamente, come già era stato portato da altri periti tecnici in altre udienze, è stato messo in luce come la chiusura della piazza, l'impossibilità di allontanarsi dalla piazza, i caroselli, le cariche manifestanti, i pestaggi indiscriminati a chiunque poteva essere isolato da altri gruppi di manifestanti, e questa cosa insomma anche oggi il lavoro presentato dai periti sui video è stato molto chiaro, per cui creando come dire quella, a noi ha fatto molto piacere la rigidità sulla faccia della giudice, perché veramente insomma che finalmente comunque vengono raccontate, no, la realtà di quella giornata. E c'è stato poi la prossima udienza, appunto, come anticipavo, sarà quella del 18 settembre, dove verrà conclusa la fase di testimonianze della difesa. Sì. E poi si procederà al dibattimento, e quindi come sicuramente dalla radio più volte è stato detto e spiegato, è un processo che si sono voluti insomma molto sbrigare, è andato molto veloce, l'abbiamo visto per tutto quest'anno, e quindi poi nei prossimi mesi, insomma, dopo la fase estiva, probabilmente prima di fine d'anno chiuderanno e daranno la sentenza in primo grado. Quindi c'era una bella presenza in aula, c'eravamo in diversi, e comunque questa cosa è stata insomma conclusa abbastanza bene questa giornata, insomma sono le parti di processo dove vai là e ascolti insomma quelle che sono un po' la verità di quella giornata, le dinamiche reali, le fandonie, sì, che ci hanno raccontato tutto quest'inverno. Okay. Quando hanno presentato il loro testo di accusa. Bene. Quindi bene, adesso insomma si attende e si continua a seguire, invitiamo tutti comunque a seguire le udienze, a attivarsi per la solidarietà con le iniziative e benefit per questo processo, a fare in modo che insomma di questo processo si continui a parlare e che rimanga insomma bello presente nell'attività di tutti i compagni e le compagne. Allora chiudiamo ricordando la prossima udienza. Sì, 18 settembre alle 9 di mattina, sempre Palazzina C, sezione 9. Benissimo. E quindi questa sarà la prossima udienza. Avremo modo di tornarci sopra, chiaramente. Un abbraccio, a presto. Bene.